Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Si chiude oggi la terza edizione di Bilbol Bull, il festival internazionale del fumetto che si sta svolgendo in questi giorni a Bologna. Il tema di quest'anno è il rapporto tra storia e fumetto. Non so da dove viene quello che faccio. Sergio Toppi, milanese, classe 1932, conferma che è quasi sempre inutile tentare di risalire all'origine della creazione passando attraverso l'unico testimone attendibile, l'autore. Si rimane lì, a contemplare un enigma, come quando si guarda un neonato attraverso il vetro della nursery. Gli autori e il mistero di cui sono portatori sono il cuore del Bilbol Bull, il festival internazionale di fumetto che chiude oggi a Bologna la sua terza edizione. Un programma fittissimo, impossibile da sintetizzare, che ha avuto come evento centrale la mostra antologica e il relativo convegno su Toppi. Uno dei relatori, Matteo Stefanelli, dà un'affascinante lettura del lavoro dell'artista. Ha spostato l'asse dell'esperienza della lettura nel fumetto. Le figure totemiche, il tratto arabescato, la mancanza di un'azione sistematicamente in sequenza, inducono alla contemplazione del disegno. Ci si perde in esso. Il punto non è più la suspense, la trama. Il fumetto perde razionalità. Si esplora il segno. Questo approccio quasi spirituale è il contributo più rilevante che Sergio Toppi ha portato nel fumetto. A Toppi viene attribuito anche il merito di aver rivoluzionato l'impaginazione della tavola, che perde la tradizionale gabbia a frame regolari, lasciando fluire le forme e i percorsi della lettura. Terzo elemento essenziale, l'interazione grafica tra testo e immagine, che smettono di essere elementi distinti. È un lavoro difficile, dice Toppi, e capita lo smarrimento. A tirarti fuori dalle secche è spesso il mestiere, che per molti è qualcosa di innominabile. Il fulcro del festival quest'anno è sul rapporto tra storia e fumetto, che ha prodotto alcuni buchi nell'acqua e autentici capolavori. Interessante indagare. Procedevo facendo ipotesi, tentando rovesciamenti di visuale, dice Francesco Tullio Altan, presente con Il Mar delle Blatte, una grande mostra retrospettiva dei suoi romanzi a fumetti su personaggi storici come Colombo, Franz, Francesco d'Assisi, Casanova, ripubblicati quest'anno da Rizzoli e Comma 22. Altan ha spogliato i protagonisti della sovrastruttura che il mito ha costruito su di essi, riportandoli alle miserie dell'uomo comune, alla decadenza che, in varia misura, contagia ogni fase della storia. Quello che si chiede a un autore, più che una ricostruzione fedele delle vicende storiche, è un punto di vista originale, stabilire un nesso tra la storia collettiva e quella individuale. Non sono un giornalista, dice Vittorio Giardino, creatore di Max Friedman, protagonista di No Pasaran, un racconto ambientato durante la guerra civile spagnola. Ho incontrato qualcuno che c'era in quella guerra e mi ha detto è stato molto più sanguinoso. Ma a me interessava mostrare altro, i problemi etici e politici che si ripropongono nel tempo e in fondo ancora oggi non sono cambiati. Questo mi porta ogni volta a tentare di capire le ragioni di tutti. Giardino, un ingegnere che ha iniziato abbastanza tardi a creare storie a fumetti, ha scoperto subito il fascino di questo mestiere. È come fare cinema da solo. Fai i sopralluoghi, fai l'attrezzista e lo sceneggiatore, i provini ai personaggi. Ci metti tempo a trovare una faccia e siccome non puoi permetterti dei modelli, usi lo specchio per la mobilità facciale. E così, inesorabilmente, io sono tutti i miei personaggi. Il suo tratto pulitissimo permette un'estrema definizione dei particolari, che diventano un fondamentale elemento narrativo. Quando Friedman apre la sua valigia, ci sono cose molto precise. Quei dettagli ne definiscono il carattere. In questi casi, il disegno è un ideogramma. La formula del festival, diffuso nella trama della città invece che recluso in un centro congressi in periferia, funziona, diventa festa. Aiuta la topografia del centro, ma ci vuole la vocazione a partecipare. I ragazzi di Amlin, organizzatori del festival, hanno fortemente cercato questo coinvolgimento anche se si traduce in un enorme lavoro di cucitura. A Bologna è tornato Charles Burns, americano, 54 anni, membro del gruppo Valvoline all'inizio degli anni 80, con una mostra sul suo capolavoro Black Hole, inserito tra i migliori 100 fumetti in lingua inglese di tutti i tempi da The Comic Journal. La storia è un lungo delirio lisergico dei teenagers di Seattle negli anni 70, la cui percezione del reale è deformata dalle droghe e da una peste che li contagia, con mutazioni fisiche capaci di suscitare attrazione e ribrezzo. Prima di Black Hole, i mostri di Burns erano surreali, parodia pop dei B-movies e dei fumetti horror americani anni 50. In Black Hole diventano plausibili, grazie a un segno più realistico che si è ripulito dal grigio dei retini e ha acquistato più qualità nei neri. La mostra di Burns è gemellata con quella di un altro maestro del nero, lo svizzero Thomas Hoth, che procede per sottrazione con la tecnica dello scratchboard, raschiando con una punta metallica uno strato di china nera e facendo emergere il bianco del gesso sottostante. Questa tecnica conferisce spontaneamente ai disegni un'atmosfera misteriosa e drammatica che l'autore mixa con l'irresistibile ironia delle sue storie senza testo. Tutti sono rimasti insabbiati nelle secche dell'immaginazione, ma questi artigiani continuano a lasciarsi guidare dall'istinto più che dalla ragione. Viene in mente il consiglio di Hugo Pratt: non è necessario sapere tutto prima di iniziare una storia, ma almeno l'inizio e la fine. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Domenico Rosa dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Il nuovo segretario del PD propone di dare un assegno a tutti i disoccupati. Ma sarebbe più utile, invece, discutere di come aumentare gli occupati, scrive Maurizio Belpietro su Panorama. Nonostante la crisi, c'è una merce che si vende sempre bene. È la demagogia. Anzi, in tempi grami come questi, le promesse a buon mercato si piazzano ancor meglio, soprattutto in politica. Non costano nulla e permettono di fare bella figura guadagnando qualche titolo sui giornali. L'ultima delle mirabolanti offerte è l'assegno di disoccupazione per tutti, lanciato dal nuovo segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini. Il neoeletto, per farsi notare, ha bisogno di far parlare di sé e dunque prova ogni espediente, compreso il sussidio per chi non ha lavoro. La trovata in sé non è male, ma per le casse dello Stato sarebbe pessima. Un punto e mezzo del prodotto interno lordo, ha spiegato il presidente del Consiglio. Il capo del PD ha replicato sostenendo che le cifre del Premier sarebbero sballate e con soli 4 miliardi di euro si potrebbero far contenti quanti non hanno un posto. In realtà, nelle promesse di Franceschini si nasconde un trucco, o meglio, una mezza verità. Il leader dell'opposizione, quando parla di sussidio ai disoccupati, non pensa a un assegno da elargire a tutti quelli che non hanno lavoro, che in Italia sono quasi 2 milioni, ma solo a chi il lavoro lo ha perso recentemente o ce l'ha a singhiozzo. Nel complesso sarebbero circa 500.000 persone. Non solo, ma nei piani del segretario del PD il bonus dovrebbe essere limitato nel tempo, non uno stipendio indeterminato, ancorché decurtato, bensì una provvidenza di soli 6 mesi, massimo un anno. Ovviamente la prospettiva cambia e i conti con essa. Ve lo immaginate che cosa accadrebbe se a tutti coloro che non hanno un lavoro si pagasse un salario regolare? Provate a pensare quanti furbi cercherebbero di spassarsela gratis con i 500 euro regalati dal governo. In certe aree del paese, dove regnano una disoccupazione cronica e una criminalità diffusa, l'unico effetto sarebbe di far crescere il lavoro nero, perché grazie al sussidio molti potrebbero dedicarsi ai vari sistemi per arrotondare le entrate senza dover versare un centesimo al fisco. Del resto, se in un paese come la Gran Bretagna e in passato l'Australia sono stati costretti a mettere dei vincoli al sussidio di disoccupazione per evitare che qualcuno ne approfittasse fraudolentemente, c'è da supporre che da noi bisognerebbe mettere le guardie al fianco degli sportelli che erogano l'assegno, costringendole a spulciare ogni pagamento. Tra i furbi ci sarebbero anche certi imprenditori svelti di mano e di conti, che avrebbero un mezzo rapido per alleggerire il carico contributivo. Grazie all'assegno di disoccupazione potrebbero fare ristrutturazioni senza dover passare dall'ufficio provinciale del lavoro per discutere delle modalità con cui mettere i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità. Il sussidio di disoccupazione rischierebbe insomma di accelerare la riduzione del personale. Tutto diventerebbe più facile grazie alle casse dello Stato. Intendiamoci, non è che non ci sia bisogno di un aiuto a chi resta senza impiego, ma in Italia di strumenti per dare una mano a chi ha perso il lavoro ce ne sono già a sufficienza. Basti ricordare appunto la cassa integrazione, che in qualche caso dura anni. E per i dipendenti che non ne hanno diritto, sono stati previsti strumenti simili. Ma più che parlare di come aiutare i disoccupati, come ha spiegato il segretario della UIL, Luigi Angeletti, forse sarebbe il caso di discutere di come far aumentare gli occupati. Certo, ci vorrebbe un piano di aiuti alle imprese che assumono, soprattutto a quelle medie e piccole che soffrono a causa della carenza di liquidità. Ma per fare questo c'è bisogno di più di una promessa a buon mercato. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Maurizio Belpietro, Demagogia che non costa niente, da Panorama numero 2236 del 12 marzo.